Pul-i-Kumri. Nonostante Mazar-i-Sharif fosse la capitale del Turkestan afghano e centro di pellegrinaggio, avevamo fretta di partire poiché temevamo una qualche decisione a nostro riguardo da parte delle autorità. Non era ancora il momento di realizzare il mio progetto di scomparire nel selvaggio Kafiristan. Prima avrei dovuto presentare Cristina agli Hakin, ma desideravo, al pari della mia compagna, percorrere la grandiosa vallata dell'Hindu Kush senza l'impaccio di una scorta. Nel piccolo albergo, bagni piastrellati, letti metallici, lunga tavola comune, ero continuamente con le orecchie tese verso il telefono per controllare se il gestore comunicava il nostro arrivo alla polizia. Mazar-i-Sharif prende nome da una tomba che gli afghani pretendono appartenere ad Ali, il quarto imam, che ebbe tra i suoi adepti numerosi sufi. Il luogo santo, una costruzione massiccia dalle cupole di pallido turchese, si innalza al centro di una vasta cinta lastricata. Dalla porta d'entrata si gode una visione di riflessi danzanti sugli infiniti smalti dei rivestimenti. Ma avvicinandosi, quella sensazione di bellezza si affievolisce. Troppe le superfici di blu e giallo tenui e, come nelle illustrazioni di Duhlak, una nota di eccessiva ricercatezza nelle maioliche smaltate. Con voli gravi e solenni, colombi bianchi si posavano a terra, all'ombra degli Iwan. Alcuni mendicanti in fila aspettavano. L'antico mausoleo, che datava al 1136, fu distrutto da Gengis Khan. La moschea attuale risale al XV secolo e meno di 100 anni fa ne furono rifatti gli smalti. Quel santuario è ancora vivo nella mia memoria, grazie soprattutto a quell'avvolgente atmosfera di rifugio che mi accolse quando n'ebbi superata la soglia, ornata di una catena di ferro che pendeva a mo' di festone. Quando lasciammo Mazar, eravamo finalmente sole. Nel tardo pomeriggio il calore era ancora estenuante, ma contavamo di dormire sulle alture di Haibak. Attraversammo uno smorto deserto dove scure tende si stagliavano nette sotto le nuvole blu notte. Di nuovo il vento ci aveva raggiunte, spirando violento sulla terra. Il pianale della Ford era tanto infuocato da costringermi a ripiegare le gambe sul sedile per non sentirne l'ardore attraverso le suole. Una tempesta di sabbia si accompagnò alle raffiche taglienti del vento. A Tash Kurgan dovevamo deviare a sud per prendere la strada di Kabul che taglia l'Hindu Kush. Mi sarebbe piaciuto continuare dritto verso le sorgenti del pian di Amu Darya e da lassù, nel Pamir cinese, ricalcare le tracce del mio viaggio di 4 anni prima. Avrei visto le rovine di Kunduz dove gli Hakin avevano scoperto monumenti buddisti. Avrei percorso il Badakhshan, i cui re ereditari al tempo di Marco Polo discendevano ancora da Alessandro Magno e avevano il titolo di Zulkarnain, signore dalle corna, epiteto arabo dato al conquistatore macedone. Questa provincia è famosa per i suoi rubini, così come per i lapislazzuli che servono per tutti quei mosaici blu oltremare da me tanto amati. La sua popolazione originaria sembra essere di temperamento brutale e violento, o almeno così dice Xuan Zang, che ritornò in Cina attraverso tutto il Badakhshan. Egli scrisse inoltre che la maggioranza degli abitanti ha occhi grigio-azzurri, caratteristica che li distingue dalle popolazioni vicine, ed è vero ancora oggi. Al crepuscolo eravamo a Tash Kurgan, di cui non vedemmo che muri di giardini, e poi puntammo verso le montagne. Ma una gomma scoppiò. Era forse il suo modo di ribellarsi al terribile caldo. Piazzammo la ruota di scorta, ma era sgonfia. Per nostra fortuna passavano in quel momento due montanari dall'aria intelligente e curiosa che misero mano alla pompa e poi si allontanarono. Non avevamo ancora riposto gli attrezzi che vedemmo un'altra gomma a terra. Ogni nostra energia fu usata per sistemare la seconda ruota di scorta. Stremate dal calore, dovevamo altresì subire l'attacco di nugoli di zanzare attratte dal sudore che cadeva a grandi gocce nella polvere, nugoli densi che si avventavano come vampiri su di noi, offuscandoci la vista. Intanto era scesa soffocante la notte. Era troppo rischioso affrontare la montagna senza più ruote di scorta, bisognava ripararle. Forse avremmo trovato aiuto alla locanda per viaggiatori del posto, ma non riuscendo a trovarla, senza risorse in quel luogo che pareva morto, Incominciammo a bussare disperatamente a tutte le porte di legno, sbirciando tra battenti chiusi da lucchetti. Intorno a noi si stendeva silenzioso un mondo asfissiato dalla polvere. Avevo la strana impressione di muovermi in una sorta di sogno, ben sapendo che ogni sforzo sarebbe stato inutile. Gli abitanti temevano i banditi? Non ci rassegnavamo a campeggiare sulla strada quando forse poco distante vi erano una doccia e un autista capace di riparare le nostre gomme. Proprio allora si aprì una porta rinforzata da una lamina di latta. Sulla soglia apparve un rispettabile personaggio seguito da un servo munito di lanterna. Le nostre difficoltà erano risolte. Mai saremmo riusciti a trovare da sole quella sontuosa locanda per viaggiatori, tra virgolette. Un portone regale si apriva su un giardino alla francese e al fondo vi era il palazzo di Jahnama, costruito un tempo per l'astuto emiro Abdurrahman, che aveva governato l'Afghanistan alla fine del secolo passato. Lo immagino solido come la sua dimora. Prima di diventare emiro, Abdurrahman era stato sconfitto da Shir Ali a Kabul. Si era allora rifugiato a Samarcanda, dove era rimasto 10 anni. Scambiandolo per un semplice e ingenuo montanaro, i russi discutevano davanti a lui di questioni politiche, persuasi di non essere capiti. Il futuro emiro, che aveva segretamente imparato il russo, arricchì così di molto le proprie conoscenze in fatto di politica asiatica. Mentre i miei passi risuonavano nelle stanze vuote del palazzo, pensavo al suo antico proprietario, barbuto, abile, la culotte di Astrakhan ben calzata sulla testa, corpulento, maestoso e irrigidito dai reumatismi. Era ancora l'alba quando, emergendo da una gola, raggiungemmo Haibak, il Samangan delle leggende persiane. Il giovane sole illuminava una scena idilliaca. Le enormi rovine di un castello merlato facevano da corona una collina. Ai loro piedi scintillava un corso d'acqua poco profondo, dove donne avvolte da un manto nero riempivano tondeggianti otri rilucenti che poi appendevano al dorso degli asini. Sedute su una stuoia e sorseggiando tè in tazze di porcellana, ammiravamo le montagne che presto avremmo affrontato e i campi color ambra circostanti il villaggio. Vicino a noi risaltavano superbe le teste di 3 anziani dal portamento aristocratico. Vi era anche, accanto a un grammucchio di meloni maculati, un venditore. Più lontano pendevano dai rami di un albero parti di montone abilmente tagliate dal macellaio. Dietro di noi, file di panciute teiere brillavano dolcemente all'ombra di ripiani, mentre un ragazzo, sventagliando, teneva vivo il fuoco del suo samovar. Due uomini avevano la testa coperta da uno zucco ricamato, allegro come un mazzo di fiori freschi. Alcuni colombi tubavano, perduti in un mondo tutto loro. Un ragazzino accarezzava macchinalmente la sua pernice e intanto osservava le nostre mosse, incuriosito dalle due straniere. Alcune capre nere guardavano l'orizzonte dall'alto di un tetto piatto dove erano state legate. In quell'istante, quasi per completare tanta bellezza, apparvero 6 cammelli, lenti, solenni, con una bardatura scura a grandi fiocchi. In groppa al primo avanzava una nomade con uno scialle arancione e un'acconciatura di foggia turcomanna. Fu la nota più lieta di quell'azzurro mattino. Gioia, certo, e pace, pace delle greggi che pascolavano ai piedi di quel castello dove già nel XVII secolo un re si batteva in favore del Pashtu, lingua delle tribù afghane. Pace della terra prodiga di grano dorato per i suoi contadini vestiti di bianco, pace di un mondo stabile che nulla sa di settimane di 40 ore lavorative, di ministeri per il tempo libero, di rotative che sommergono la gente di innumerevoli giornali. Da Haibak scendemmo a più bassa quota verso la valle del Kunduz, che avremmo costeggiato fino al colle dello Shibar. Lungo il fiume si stendevano paludi coperte di canne e risaie. In quel clima caldo e umido, che induceva sonnolenza, guidavamo dirette verso un restringimento della vallata. Ma a un tratto, dinanzi ai nostri occhi inorriditi, ecco apparire i muri bianchi di una fabbrica. I tetti, a dente di sega, dei numerosi edifici si disegnavano minacciosi nell'aria polverosa e tutt'intorno erano montate baracche e tende per migliaia di uomini. Più lontano si ergeva, non ancora ultimata, una grande diga in cemento armato. Qui, nel cuore dell'Asia, senza che un piano quinquennale ne spiegasse il miracolo, era sorto questo immenso mostro, distante 270 chilometri dalla città più vicina, Mazar-i Sharif. Ammirando il Kunduz dall'alto di un antico ponte edificato probabilmente da Gengis Khan 700 anni prima, pensavamo che tale costruzione, dopo aver resistito ai furiosi vortici di quel fiume irruente, era destinata a soccombere, travolta dalle acque del nuovo bacino. La scena ricordava certe descrizioni del Far West: baracche, tende, botteghe, officine sommerse in un mare di polvere sollevata dal forte vento. Ovunque frastuono e attività, file interminabili di vagoncini decoville, ribattini infissi a colpi di martello, betoniere che impastavano cemento in un tutt'uno che si muoveva, che lanciava scintille, che si spostava di qui e di là. Eravamo a Pul-i-Kumri. Ci fermammo in una chai khana per bere il tè e riposare. Venimo a sapere che proprio in questo luogo 500 telai e 800 operai sarebbero stati impiegati per tessere e filare 10 milioni di metri di cotone all'anno. La stazione elettrica avrebbe anche fornito energia alla raffineria di zucchero di Baglan, che si trovava più a valle. Migliaia di uomini erano già morti di malaria, come d'altronde era successo 7 anni prima, quando i sovietici costruirono la grande diga di Wakstroi a nord dell'Amu Darya. Vi era un'umanità multiforme, ma tutti portavano lo stesso sudicio straccio a guisa di turbante. I quieti Hazara, i cui antenati dovettero arrivare al seguito di Gengis Khan, avevano occhi stretti e zigomi alti. I Tagiki, che sono probabilmente i nostri cugini asiatici, si riconoscevano dalle barbe nere e ondulate e dai tratti irregolari. I volti dei veri afghani erano lunghi e sottili, con naso aquilino e occhi penetranti. Chi invece aveva viso rotondo e pieno apparteneva alla tribù degli Uzbeki, i cui fratelli vivono al di là della Amu Darya, dove da molto tempo sono state modernizzate città come Tashkent e Samarcanda, e dove i pionieri del socialismo commiserano talvolta quell'Afghanistan ancora così feudale. I turchi iranizzati sono dei Kizilbash, i rudi turcomanni dal naso dritto e fiero, originari delle pianure desertiche settentrionali, sono i soli a lavorare volentieri. Anche se erano arrivati degli operai specializzati da Kabul, dove avevano lavorato alla costruzione di nuove fabbriche, gran parte della manodopera era reclutata nei borghi della regione. Come reagivano quegli uomini a una giornata di ininterrotta attività? Si adattavano al ritmo imposto da un capomastro, abituati come erano a riposarsi liberamente all'ombra di un olmo se il lavoro non era troppo urgente? Si sentiva a tratti come uno strepito. Era un gruppo che cantava, o meglio urlava, un'esclamazione sempre la stessa. Quattro benedetti califfi, o quattro benedetti califfi, un'invocazione di origine sunnita che fa riferimento ai califfi venuti dopo Maometto. I sunniti li riconoscono tutti e quattro, gli sciiti soltanto due. Mi dissero che era anche il loro grido di guerra. Affrontare il lavoro con l'identica espressione con cui si attacca il nemico mi sembrava alquanto indicativo. Mentre stavamo sedute fuori dalla chai khana, la casa da tè, vedemmo sopraggiungere un elegante tedesco a cavallo di un pony. Guardandolo incuriosita, pensai che non avevo incontrato europei da molto tempo. Quella notte approfittammo dell'ospitalità di Herkun, mentre nella sorprendente vallata l'attività continuava incessante tra lampi di elettricità. Entrata in casa, si parò dinanzi a noi un ritratto di Hitler che sembrava sovrastare tutto: tavolini, cuscini, cane e la bionda signora Kuhn. Eravamo ancora in Asia? Oh, certamente sì. La nostra ospite si premurò di informarci subito che utilizzava soltanto latte in scatola, non fidandosi affatto del prodotto locale. I Kuhn conoscevano l'Iran. Il marito aveva costruito e abitato con la sua famiglia la casa con veranda dove avevamo dormito a Shahi, vicino al Mar Caspio. Così la signora fece un paragone che voleva lusinghiero per gli iraniani. Gli afghani sono gente impossibile. A Kabul, quando nevica, non scendono neppure dal marciapiede se incrociano una signora, obbligandola a camminare nel fango. Invece, un iraniano le cede sempre il passo. Beh, è risaputo, le dissi, che l'orgoglioso afghano crede di essere superiore a chiunque, e ancora più se si tratta di donne sconosciute che egli considera la stregua degli animali. Soltanto la madre ha per lui diritto a un certo rispetto. Ma la padrona di casa non mi ascoltava, intenta a seguire il filo dei propri pensieri. Non mi crederete, ma Frau Kirsten e io siamo state pregate di non fare il bagno nel fiume, unico nostro sollievo in questo caldo tropicale. Cristina intervenne. Forse per noi è difficile immaginare le reazioni di chi non ha mai visto gambe o braccia femminili scoperte, per non parlare di un corpo in costume da bagno. Ma noi non ci esibiamo, perché ci guardano? Rispose la florida e bionda signora. A ogni buon conto, il marito aveva dichiarato all'anziano della valle che le due Canum avrebbero continuato a bagnarsi nel fiume, e punto. Pur rispettando le leggi del paese, non era intenzionato a dimenticare i propri modi di vita e quindi neppure a nascondere sua moglie sotto una sorta di lenzuolo ogni qualvolta doveva uscire di casa. Il nostro ospite e l'altro ingegnere, suo compatriota, parlavano delle difficoltà incontrate. Gli ufficiali afghani coltivavano piani grandiosi senza peraltro voler ammettere di non essere assecondati da gente onesta e in grado di far eseguire i loro ordini. Avevano persino istituito una scuola di ingegneri quando mancavano capomastri e carpentieri. Non si otteneva nulla, o meglio, realizzare anche la minima cosa implicava un dispendio incredibile di energia. Esempio indicativo: dopo mesi di fatiche, disperando di aver mai un vetro sostituito, un loro collega di Kabul era andato a lamentarsi dal ministro dei lavori pubblici. In caso di necessità, aveva detto il ministro, rivolgetevi sempre a me, sono il solo ad avere diritto di picchiare. Uno dei presenti intervenne. Vi ricordate ciò che ci hanno raccontato l'altro giorno? La Skoda ha venduto delle mitragliatrici da montagna all'esercito, ma i soldati che ne dovevano trasportare i vari pezzi li hanno posati a terra trovandoli troppo pesanti. È scritto nel Corano che il lavoro penoso deve essere lasciato agli asini. È stato necessario convincerli che la guerra contro l'invasore o l'addestramento a tal fine giustifica ogni infrazione al libro santo. L'ingegnere Perch soggiunse: Quando dico al carpentiere che la porta non è perpendicolare, egli mi risponde, con l'aria di burlarsi di me, che purché chiuda il resto conta ben poco. Come insegnare a questi uomini che una frazione di millimetro è importante quando si tratta di costruire il basamento di un motore diesel? Le permetto di picchiare purché la diga sia finita nei tempi previsti, concesse il ministro all'ingegner Kirsten. In Afghanistan è pericoloso battere qualcuno. Il direttore della scuola tedesca dovette lasciare il paese nel giro di 24 ore perché aveva dato un ceffone al piantone che, secondo la consegna, gli vietava l'entrata nell'officina della Motorkhana dove aveva lasciato la sua automobile. Tentando un'analisi dei miei sentimenti dinanzi allo spettacolo che si celava nel cuore del Hindu Kush, chiesi ai miei ospiti se il pensiero della miseria già causata a questa valle da tale grande costruzione non li angosciasse. Le nuove tecnologie della nostra civiltà non sono forse una maledizione quando strappano uomini come gli afghani dal proprio ambiente per obbligarli troppo bruscamente a modi di vita che appartengono a un paese diverso da loro? Ma quegli ingegneri non erano disposti ad ammettere che la loro centrale idroelettrica snaturasse l'esistenza degli indigeni, no? Naturalmente citavano il progresso, livido Dio che dalle guerre trae profitto. Il loro lavoro era costruire e finché costruivano erano contenti. Fortunati coloro che non vedono al di là dei loro interessi immediati. Fummo sistemate per la notte sui divani della sala da pranzo, ma non riuscendo a dormire per il caldo iniziamo a discorrere. Ritenevamo che non fosse la macchina in se stessa a essere negativa, ma il suo uso. Quando un uomo se ne sente padrone, prova un sentimento di potere più forte della norma, sia che gli sieda sul sellino di una veloce bicicletta, sia che salga su torri di nuvole fra cieli sconfinati. Un autista di pullman sembra investito di dignità naturale. Padrone, dopo Dio di quel mezzo, è un eroe agli occhi dei suoi 25 passeggeri, ma quando una persona è schiava di una macchina che le impone i gesti da compiere, scopre ben presto che la vita ha perso ogni attrattiva, anche se un salario migliore le permetterà cibi più abbondanti e appetitosi. Il piacere infatti è in noi e non in ciò che ci viene offerto. Un lavoro meccanico non implica iniziativa, decisione autonoma, comprensione o gioia di fare. Se la gente delle nostre mostruose capitali deve rassegnarsi alla fabbrica non avendo altra scelta, trasformare solidi contadini o liberi pastori in robot indifferenziati e senza più radici rasenta il delitto. Deve pure arrivare il giorno in cui le macchine non soffocheranno più la parte migliore dell'uomo. Questa è la nostra unica speranza. Poiché in Europa è impensabile un ritorno al passato, ai tempi in cui il clan si faceva carico dei bisogni comuni. Nell'attesa, disse Cristina, si pretendono con gran clamore scuole, ospedali, strade e soldati. Tutto questo implica spese enormi. E allora sono necessarie fabbriche, sudditi docili, lavoratori che paghino le tasse. Conseguenza ne è un genere di sviluppo che, peculiare all'Europa, influenza a sua volta il resto del mondo. Macchine e operai in numero crescente per produrre sempre di più. Puli Cumri divenne per noi simbolo dell'età della macchina, tanto oppressiva per il cuore umano, così come della civiltà europea riprodotta servilmente dai paesi asiatici, malgrado il disprezzo che gli orientali nutrono per noi barbari occidentali. La natura, il clima, le caratteristiche dell'Afghanistan sono del tutto estranee alle innovazioni sorte un po' ovunque, non soltanto alle fabbriche o alle imprese industriali, ma anche alle case moderne, impossibili da riscaldare durante i rigidi inverni per le loro larghe finestre e i tetti sottili, agli abiti troppo stretti, alle scarpe a punta in similpelle, alle biciclette. Se fabbricare stoffe di cotone esige l'impiego di eserciti di robot, perché non continuare a usare quelle tessute a mano? Ognuno deve potersi nutrire e coprire, questo è ovvio, ma il prezzo da pagare è necessariamente l'annientamento delle più importanti facoltà umane. In altre parole, è veramente indispensabile che i paesi asiatici portino alle sue estreme conseguenze l'amara esperienza materialista. Ammettendo che l'Europa cominci a riscoprire una vita basata su valori spirituali, quando l'Asia si affrancherà dal miraggio di un'industrializzazione immediata e a tutti i costi? Hashim Khan, l'intelligente primo ministro afghano, si renderà conto che introducendo troppi metodi occidentali tra le sue tribù rischia di sconvolgerne l'equilibrio, di farle cadere in quella depressione morale spesso insita nella nostra cultura materialista. Le miniere, il petrolio, il carbone promettono rapidi e vistosi benefici, bestiame, frutta, pelli conciate, lana, grano e foreste esigono infinita pazienza, ma corrispondono a un modo di lavorare proprio dell'afgano. Non richiedono una rottura con il passato o uno sviluppo forzato e imposto, lasciano che armonia, gioia di esistere, fluiscano normalmente. Dovremmo essere seriamente preoccupati nel vedere che è l'aspetto materiale sordido della civiltà occidentale a esercitare effetti tanto rivoluzionari e incisivi sul resto del mondo, scrive il dottor J.H. Oldham in una delle sue Christian Newsletters. Bisognerebbe dare un'analoga risposta agli ingegneri che parlano di progresso. Non è la pazienza dei nostri studiosi di laboratorio, l'abnegazione dei ricercatori, l'onestà degli artigiani che sono conosciute all'estero, bensì il nostro modo di guadagnare denaro, le macchine per cucire, i telai, gli orologi, i fucili, il cinema e i manuali. Perché la nostra civiltà insidia, falcia, corrompe tutto ciò con cui viene a contatto? Perché tanti arabi, giapponesi, indù o cinesi adottano il peggio di quanto offriamo? L'ingegnere Perch doveva costruire non soltanto 12.000 alloggiamenti per gli operai, ma anche alcune scuole. A Kabul, nel 1937, il primo ministro mi aveva detto che metà del bilancio era destinato all'istruzione. Seguendo un hadith del Corano, propriamente un racconto, la propaganda attuale affermava: cercate la scienza anche fosse in Cina. Il ministro era convinto che l'istruzione fosse il miglior mezzo per scongiurare il pericolo che il proprio paese fosse invaso un giorno come l'Abissinia o la Manciuria. Scuole! Nel Kirghizistan, in Cina, in India, in Turchia e ovunque questa sembra essere la parola magica capace di risolvere ogni difficoltà. Non nego certo il piacere di scrivere, di leggere, di conoscere i numeri, ma ritengo altresì che la scuola non sviluppi le facoltà umane nella stessa misura in cui le soffoca, offrendo un'eccessiva quantità di notizie fruste e di argomenti incompleti di cui lo studente cinese o indù si servirà come di verità evangeliche. Sappiamo che l'uomo discende dalla scimmia. No, non lo sappiamo. Tolstoi, che conosceva bene sia la cultura occidentale sia l'ignoranza dei contadini del suo paese, scrive in Guerra e Pace che i cosiddetti popoli avanzati, che non sono che una massa di ignoranti, vivono in un'era di vanità in cui la volgarizzazione del sapere è facilitata dall'arma più potente dell'ignoranza, la diffusione della carta stampata. Con lo sviluppo dell'istruzione le nostre idee continueranno a divulgarsi e grazie a esse il giovane che sogna di diventare indipendente potrà smettere di obbedire a suo padre o a chiunque lo abbia nutrito. Ma l'emancipazione che gli offriamo è pericolosa. Essa lo separa, gli insegna la critica, lo illude di sapere a sufficienza per poter giudicare e quel ragazzo finirà per entrare nella schiera dei piccoli Prometei. E sentendosi estraneo dovrà affrontare uno stato di ineluttabile solitudine. È lecito dunque chiedersi se ospedali, scuole, giornali, radio offrano all'operaio afghano vantaggi tali da compensare la perdita di quel sorriso sempre pronto che accompagnava la sua vita, dura ma ben equilibrata, di contadino. La Russia sovietica risponde affermativamente, poiché i benefici realizzati grazie alle fabbriche non andranno a profitto di un plutocrate o di uno scià, ma degli operai. Io dico di no, convinta che se una persona utilizza buona parte della propria energia nel ripetere gesti meccanici 8 ore al giorno, anno dopo anno, non avrà più la vitalità e ancor meno l'ispirazione per vivere una vita propria nel tempo che le rimane della giornata. Mi rendo tuttavia conto che prima di poter dire no con conoscenza di causa dovrei trascorrere almeno qualche anno con dei veri afghani, vivendo la loro esistenza ritmata da vento, sole, neve e improntata alla più assoluta austerità. Mi domando se è possibile che un montanaro, benché suggestionabile, possa voler scambiare il suo cielo aperto con la vita di fabbrica e con quanto essa gli offre. Una stanza miserabile a Kabul, effimere distrazioni dinanzi a qualche film, degradante girato con scenari di cartone, chiacchiere sulla città mentre si fa rasare dal barbiere, discussioni con i vicini su notizie lette sui giornali e spesso poco capite. Al mattino presto cavalcavamo già lungo un vallone laterale nei pressi di Pul-i-Kumri. Il sentiero serpeggiava poi liberamente in un vasto mondo di colline, monotone e riarse, simili a quelle che avremmo visto a Bamiyan. In conche lontane pascolavano gregi sparse, piccole macchie scure su una distesa di pallido giallo. Poter ammirare uno spazio tanto immenso era entusiasmante. Volevamo godere appieno di quel senso di infinito emanato dalle vaste ondulazioni del terreno e, per contrasto, ritornavamo con il pensiero a quel formicaio poco distante che sconvolgeva la vallata. Ritornate presso i nostri ospiti mi sentii male. Il calore, il trotto brusco del mio pony e la sua sella di legno, il lungo discutere nella notte precedente, mi avevano probabilmente affaticata. Mi sentivo così debole che Cristina andò senza di me a visitare la fabbrica. E di nuovo mi stupii di lei che, pur così fragile, era tanto più resistente di me. E ancora una volta mi chiesi da dove venisse la sua forza. Do au. Presto avremmo vissuto i più bei momenti di tutto il nostro viaggio. Haibak era stata una sorta di soglia da superare ai piedi dell'Hindu Kush per accedere finalmente alla vallata del Kunduz, che avremmo percorso sino al suo crinale mediano. Il nome Hindu Kush deriva probabilmente da quello dato dai greci a queste montagne, Caucaso Hindu. Anche se, secondo Ibn Battuta, viaggiatore del XIV secolo, Hindu Kush significa carnefice degli Hindu, poiché a causa del freddo intenso e della gran quantità di neve, colà muoiono in gran numero ragazzi e fanciulle condotti schiavi dall'India. Egli racconta altresì di aver attraversato quella montagna senza mai sostare dall'alba al tramonto, costretto a stendere continuamente tappeti di feltro davanti ai cammelli perché non affondassero nella neve. I cammelli sono scomparsi. sostituiti da camionette sferraglianti e rumorose che si nutrono di un liquido oleoso arrivato da Baku o dalla Birmania. I capi carovana non si riuniscono più di notte intorno al fuoco ad ascoltare storie. Il caravanserraglio si è trasformato in un garage dove abili autisti passano la notte a fare le necessarie riparazioni ai loro veicoli. Aiutati da apprendisti che vuotano il radiatore dopo averne svitato il tappo incandescente con l'estremità del loro sudicio turbante. Ed essi non dimenticano mai di fissare il crick sotto l'estremità sovraccarica del pianale del camion. Questi moderni animali da soma sono sottoposti a strapazzi continui. Solchi e buche sono così numerosi sulle piste afghane da costituire, a detta di alcuni, una difesa strategica del paese. In inverno la strada che sale fino allo Shibar, alto 3.000 metri, diventa un cunicolo scivoloso e ghiacciato tra pareti di neve alte talvolta più di 3 metri. Allora, persino i freni di quei maldestri animali, tra virgolette, quando anche funzionino, diventano inutili. Quando l'automezzo deve fermarsi, l'autista si affida al suo bacia, ragazzo, che supera la camionetta e getta davanti a una delle ruote un grosso maglio. Camion e asini muoiono entrambi sulla strada. Se ne vedono talvolta le carcasse affiancate, uno senza più ruote e con il cuore arrugginito allo scoperto, l'altro senza occhi, strappati dagli avvoltoi, i piccoli zoccoli ormai immobili dopo la breve agonia. Si scorge qualche telaio metallico al fondo di un burrone dove è precipitato, slittando, o per essersi trovato a una curva della montagna fronte a fronte con un autocarro. Nel 1937 vidi i resti di un veicolo nel greto del Dareh-i Shikari. Il ponte di legno aveva ceduto e 7 passeggeri erano morti. Il conduttore si salvò, ma fu punito per aver distrutto il ponte. Quale sarà il poeta che canterà i camion dell'Asia e la moderna epopea del deserto del Gobi, dei precipizi della Birmania, dei monti dello Shanxi? Chi racconterà dei convogli rumorosi che non possono aspettare i loro infortunati? Chi parlerà dei tanti uomini che li guidano? E dell'autista silenzioso, così in sintonia con il suo giovane secondo da dargli ordini soltanto a gesti? O di quello che si assume rischi tali da far rizzare i capelli ai passeggeri che devono ricorrere a sforzi immensi di volontà per non saltare fuori dal veicolo? L'apprendista sembra stremato dalla fatica, ma i suoi occhi brillano ancora per la fierezza di vivere da uomo. Per tutto il giorno gli sta in piedi sul retro del camion, a volte su una gamba sola, con il pesante maglio sulla spalla, compiendo miracoli di equilibrio, e la sua unica ricompensa sarà qualche rimprovero quando si fermeranno. Se fossi nata ragazzo in un villaggio afghano, avrei probabilmente scelto il suo stesso mestiere per avere l'occasione di viaggiare fin da giovanissimo. Avrei iniziato come aiuto autista in uno dei 3.000 automezzi del paese. Raffiche di neve mi avrebbero lacerato il collo e l'indomani sarei scivolato lungo l'asfalto infuocato a est del Khyber, passando dall'ombra gelida delle sue gole alle sabbie ardenti di Ankui, in cammino per la sconvolgente moschea dell'imam Reza a Mashhad. Così felice di appartenere al mondo degli uomini che la mancanza di sonno o di cibo non avrebbe rappresentato che un altro modo di vivere, un'altra forma di allegrezza. Il camion sbanda, sobbalza, fuma, stride, slitta, si ingolfa. Quella sarebbe stata la mia vita finché a forza di piccoli contrabbandi non fossi riuscito a comprarmi un veicolo tutto mio, diventando a mia volta padrone a bordo.